Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera partiamo da un grande personaggio politico di tardo Ottocento, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, uno dei leader più autorevoli nella storia parlamentare e politica del nostro paese, al quale dedica un saggio conciso ma significativo un celebre storico, Massimo Luigi Salvadori, autore di Giolitti, un leader controverso, pubblicato da Donzelli, 212 pagine, 30 euro. Questo libro non è una biografia di Giolitti, ma un saggio appunto che affronta un tema sul quale gli storici discutono da circa un secolo, dai tempi di Giolitti appunto, perché il giudizio su Giolitti, che fu indubbiamente un grande politico, un grande leader, suscitò tante critiche e tante contestazioni. Salvadori passa in rassegna queste critiche e queste contestazioni partendo dall'esame della filosofia politica di Giolitti, dai suoi risultati, che furono risultati importanti, per esempio non dimentichiamo che allargò il suffragio universale e avviò alcune riforme sociali molto importanti, e parla anche Salvadori delle ombre che certo non mancarono nella sua politica, per costruire appunto una sintesi della sua figura, delle sue posizioni, soprattutto delle posizioni su Giolitti, di cui adesso qui ci parla. Buonasera a Massimo Salvadori. Buonasera a tutti voi. Massimo Salvadori, nel suo libro lei accenna nelle prime pagine, nella premessa, a un problema Giolitti. In che cosa consiste questo problema Giolitti? Vede, Giolitti è stato certamente una delle massime personalità politiche del nostro paese dopo l'unificazione dal 1861 fino ad oggi. È certamente, insieme con a parte Cavour, insieme con probabilmente con De Gasperi, andando indietro con Mussolini necessariamente, e con e Giolitti stesso, è il rappresentante di dei punti maggiori di leadership esercitati da un capo di governo nel nostro paese, che ha lasciato un'impronta talmente significativa che è uso corrente parlare tra il 1901 e il 1914 di età giolittiana. Ecco, lei dedica anche un capitolo del suo libro a spiegare in che cosa consistette la filosofia politica di Giolitti, ce lo presenta come un autentico riformatore e un democratico convinto. Allora, quali furono le ombre che fecero tanto discutere del personaggio Giolitti? Vedi, Giolitti si era acquistato un grande credito presso le masse lavoratrici e anche presso le masse contadine, presso i settori liberali progressisti della borghesia liberale, per aver incarnato la grande svolta dopo il tentativo reazionario di fine secolo è interpretato dal generale Pellù. Giolitti si era aperto al mondo del lavoro, aveva proclamato la neutralità dello Stato di fronte ai conflitti sociali, purché i conflitti non fuoriuscissero dalla legalità. Allo stesso modo noi dobbiamo notare che ho messo in rilievo anch'io sulla scia di economisti eminenti che l'età giolittiana fu l'età in cui il paese venne modernizzato dal punto di vista economico, conoscendo quella primavera economica che è stata eguagliata soltanto dal miracolo economico dopo la Seconda Guerra Mondiale. Giolitti aveva però un problema molto grosso, e cioè doveva agire attraverso un partito liberale che era diviso in correnti, da un lato conservatrici e dall'altro invece relativamente progressiste, con in mezzo una palude di deputati pronti a oscillare tra una parte e un'altra. Il che voleva dire che Giolitti era costretto, per ottenere le maggioranze parlamentari, che gli erano necessari e a ricorrere ai tipici strumenti che in generale in tutti i paesi liberali e mezzi democratici che giravano nel mondo erano consueti, cioè che i prefetti, gli intendenti, gli apparati burocratici e polizieschi in occasione delle elezioni si mettessero al servizio del governo. Il che in Italia faceva imbestialire, ad esempio, un grande democratico socialista come Giolitti, che lo definì il ministro della malavita, come Gaetano Salvemini, che definì Giolitti il ministro della malavita, proprio con riferimento ai metodi di cui ho parlato. Poi c'erano contro Giolitti anche i liberisti. Giolitti, per favorire lo sviluppo economico e soprattutto industriale di un paese ancora arretrato come l'Italia, aveva continuato la legislazione protezionistica a favore delle imprese italiane ancora fragili che dovevano farsi le ossa. E questo era giudicato un favoritismo intollerabile da parte degli economisti liberisti, come ad esempio Luigi Einaudi, i quali consideravano il protezionismo un intralcio alla libertà del mercato. Quindi Giolitti era accusato di essere uno statalista dai liberisti. Poi ci fanno avanti i nazionalisti, quelli che poi dopo costituiranno anche una componente importante del fascismo, che avversavano Giolitti perché era un liberale che aperto alla democrazia, tanto che fu lui a favorire poi la concessione, la legge sul suffragio universale maschile. Per cui Giolitti, in conseguenza della sua forte personalità e delle sue politiche, divise fortemente il paese, come è tradizione che questo paese sia in generale sempre così diviso. E gli uni lo consideravano il ministro della buona vita e gli altri, gli avversari, lo consideravano il ministro della malavita. E così poi si arrivò, anche dopo che Giolitti visse una stagione di esilio politico in patria, quando tra il 1915 e il 1918 l'Italia fu impegnata nella prima guerra mondiale, egli fu insultato, accusato di essere un traditore perché non era stato favorevole all'intervento, avendo molto chiaro che la guerra avrebbe sfiancato l'Italia e l'avrebbe gettata in preda delle convulsioni politiche, economiche e sociali. E se la borghesia liberale a lui contemporanea fosse stata più aperta nei suoi confronti, avremmo evitato il fascismo, secondo lei? Ma sa, guardi, ecco, lei ha toccato l'altro punto a cui proprio volevo venire. Molta parte della borghesia italiana era completamente ostile all'ascesa del movimento operaio italiano, che era prodotto inevitabile il processo di industrializzazione. Teniamo anche conto che questa ascesa del movimento operaio italiano era guidata politicamente da un lato dai riformisti allaturati, ma dall'altra parte dai rivoluzionari che gridavano abbasso il capitalismo, aspettiamo la fine del capitalismo, abbasso gli industriali, abbasso i proprietari terrieri, i conflitti sociali e le lotte del lavoro spesso diventavano violente, e quindi la borghesia liberale fu pronta a diventare una borghesia illiberale, come si vide in particolare dopo che Giolitti tornò al potere per l'ultima volta tra il 1920 e il 1921, quando nel settembre del 1920 ci fu nel quadro dell'ondata del socialismo massimalista che inneggiava la rivoluzione russa, che voleva fare in Italia come in Russia, eccetera, si arrivò all'occupazione delle fabbriche e Giolitti, che fu l'unico in Italia tra i leader politici ad avere la testa lucida, Giolitti capì benissimo che gli operai che avevano occupato le fabbriche, in particolare a Torino alla Fiat, una volta che fossero rimasti nella Fiat per un po' di tempo, illudendosi di essere loro diventati padroni delle fabbriche, se ne sarebbero defluiti, tanto più che poi i parolai massimalisti e rivoluzionari si guardarono bene dal pensare di poter guidare gli operai verso la rivoluzione socialista. E Giolitti mantiene la neutralità dello Stato, nel senso che mentre gli industriali imbestialiti contro la violazione dei diritti di proprietà invocavano l'intervento dell'esercito nelle fabbriche, Giolitti disse: ma guardate che se io faccio entrare l'esercito nelle fabbriche, primo distruggiamo le fabbriche, secondo attiviamo in maniera ancora peggiore di quel che ci siano i germi della guerra civile. E ormai erano in atto gli scontri fra socialisti massimalisti, i fascisti e così via. Dopo che Giolitti ebbe successo, le fabbriche ritornarono alla normalità, ma gli industriali non dimenticarono più l'offesa fatta dagli operai e dal loro cosiddetto protettore Giolitti, e a quel punto cosa fecero? Fecero la scelta di fiancheggiare gli agrari che ormai appoggiavano i fascisti. Si creò il blocco reazionario che poi portò Mussolini al potere nell'ottobre del 1922, col plauso di tanta parte di liberali borghesi, fra cui non dimentichiamolo Benedetto Croce e anche Luigi Einaudi. Grazie a Massimo Salvadori, autore di Giolitti, un leader controverso. Buona serata. Grazie. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Adesso parliamo di uno scrittore uruguaiano che legge uno scrittore francese, il conte Lautremont, pseudonimo di Isidore Ducasse, morto giovanissimo 150 anni fa, il 24 novembre, e autore di un libro considerato tra le primissime espressioni del movimento surrealista, cioè I Canti di Maldoror. Ducasse era francese, ma nacque a Montevideo perché il padre in quella città era funzionario dell'ambasciata francese, e se ne occupa Roberto Long, anch'egli uruguaiano, scrittore, ingegnere, ex parlamentare nel suo paese. Nel libro Non lascerò memorie, l'enigma del conte di Lautremont, tradotto da Roberto Arrigoni per Castelvecchi, 254 pagine, 18,50 €. Partendo dall'espediente di un manoscritto ritrovato, in questo caso redatto da un giovane francese del 1968, il libro si avvia ricordando il fascino intellettuale esercitato da Lautremont per le più giovani generazioni, soprattutto quelle appunto dei contestatori del Maggio francese. Il parigino, anzi, ne resta a tal punto affascinato da mettersi sulle orme dello scrittore morto 100 anni prima. Nelle prime pagine Lautremont è oggetto di un duro scontro tra i suoi ammiratori o denigratori celebri, fra gli ammiratori André Breton e Octavio Paz, fra i detrattori invece un altro autore altrettanto illustre, Albert Camus, che fa di Lautremont addirittura sinonimo di banalità. Insomma, un personaggio che ha esercitato un fascino costante sui letterati. E sentiamo dal libro alcune righe sul suo arrivo a Parigi, che avviene nel 1868. Non sappiamo né quando né come Isidoro arrivò a Parigi. Sappiamo, questo sì, cosa lo spinse ad andarvi. dimostrare alla capitale del mondo che l'ultimo poeta del XIX secolo, finalmente, era arrivato. Non aveva dubbi sul valore della sua opera letteraria, ma all'inizio non deve cominciare con un capolavoro, bensì seguire la legge della natura. Giovane, risoluto, industrioso, ostinato, era disposto a forzare fino ai limiti estremi questa legge. I suoi primi passi sembrano rispondere al disegno di un fine stratega. Non si stabilisce nel Quartiere Latino, regno di studenti spiantati e artisti bohemien. Punta dritto ai boulevard, a Montmartre, all'elegante piazza della Borsa. Non avendo altre spese oltre al vitto e all'alloggio, quelle per il vitto oltretutto esigue, si farà notare per i suoi pasti frugali, con le mensilità che gli manda il padre può permettersi una stanza nei quartieri alti. La zona che ha scelto è quella dei teatri, delle tipografie e dei bazar, abitata da uomini d'affari, scrittori e pittori di successo. Esplora con avidità questa città voluttuosa e seducente, che, scrive Octavio Paz, è forse il più bell'esempio del genio della nostra civiltà. Solida senza pesantezze, grande senza gigantismi, legata alla terra ma decisa a spiccare il volo. Una città che Isidoro conosce attraverso le pagine dei romanzi e i versi dei poeti e che ora ritrova nelle sue lunghe camminate solitarie e nelle interminabili conversazioni ai tavolini di bar e caffè. E i canti di Maldoror sono stati pubblicati da Garzanti nella traduzione di Lanfranco Pinni, 516 pagine, 15 euro, e da Feltrinelli, tradotti da Nicola Buonarroti, 190 pagine, 9 euro. Ma cosa succedeva ai tempi di Isidore Ducasse nell'Italia letteraria? Si consolidava quello che il libro che ora vi presento definisce il primo movimento letterario dell'Italia unita, cioè la scapigliatura. La definizione è di Giuliano Cenati, docente di letteratura italiana, che introduce e cura il libro Racconti d'artista della scapigliatura. È pubblicato da Unicopri, 192 pagine, 18 euro, dove troviamo racconti e scritti di Igino Ugo Tarchetti, Luigi Gualdo, Emilio Praga, Camillo Boito e Carlo Dossi. Siamo dunque negli stessi anni, 60-70 dell'Ottocento, nei quali il paese si assesta dopo l'unificazione e una generazione, quella dei giovani che aveva partecipato alle battaglie risorgimentali, cerca un ruolo nella nuova società. Milano è un centro importante di questa ricerca, che non diventa, come scrive il curatore, un'organizzazione militante dell'azione culturale, ma raccoglie spunti, ispirazioni di vario genere unificati da un obiettivo che il curatore così definisce, quello di rivolgersi alle province dell'immaginario europeo occidentale meno addomesticato, per desumerne motivi e soluzioni in linea con un'esigenza di svecchiamento della cultura letteraria nostrana. E quindi la novella diventa uno dei generi prediletti, anche per la possibilità di rivolgersi a un pubblico più vasto di quello alto borghese consumatori di letteratura tradizionali. Perciò gli scapigliati scrivono anche molto sui giornali, anche per cercare di scuotere le consuetudini borghesi dell'epoca, e rivolgono la propria attenzione al mondo degli artisti per affrontarne la coscienza problematica, dice appunto il curatore. Troveremo qui musicisti infelici, aspiranti scrittori ammattiti, pittori e poeti bohemien, fino alle pagine del diario di Carlo Dossi, nelle quali sono evocate le figure di Paolo Gorini e Tranquillo Cremona. E segnalo che sulla scapigliatura nell'arte è in corso, anzi è dormiente, una mostra all'Ecco, al Palazzo delle Paure, La scapigliatura, una generazione contro, che si può forse visitare attraverso i canali digitali. Negli stessi anni è ambientato un romanzo storico, quello di Luca di Fulvio, La ballata della città eterna, pubblicato da Rizzoli, 640 pagine, 20 euro. Si parte dal 1870, quando un giovane orfanello, Pietro, viene adottato da un'aristocratica famiglia novarese, presto colpita dalla drammatica scomparsa del padre. La vedova è una donna fortissima, dal primo sguardo ha riconosciuto nel ragazzino strappato all'orfanotrofio l'erede possibile per la casata, lei che non può avere figli, e con lui fuggirà a Roma. Quando dovrà abbandonare la ricchezza nella quale era cresciuta a causa dei debiti accumulati dal marito che si era suicidato. I due fuggono a Roma e qui le loro storie si intrecceranno con quelle di diversi protagonisti di quelle giornate fatidiche che sboccano appunto nella presa di Porta Pia, e soprattutto si intrecceranno con una Marta appartenente a un circo che approda nella capitale in quegli stessi giorni. E anche la grande storia rappresentata appunto da quell'evento storico, la breccia di Porta Pia, perde qui ogni solennità e ogni retorica, come dimostra questo insolito dialogo tra Pietro, che nel frattempo si è dedicato e appassionato alla fotografia, e un giornalista al seguito delle truppe che diventerà famoso. Ti ho sentito, ragazzo, fece un giovane di circa 25 anni avvicinandoglisi. Aveva capelli e baffi neri e ricci. Sono uno scrittore e un giornalista al seguito delle truppe di Sua Maestà, gli disse. Farò il glorioso resoconto di questa storica battaglia. Gli tese la mano. Mi chiamo Edmondo De Amicis. Pietro gliela strinse, ma provò un'immediata antipatia. E che ne sapete che sarà gloriosa questa battaglia? Gli chiese. Perché io scriverò che è stata gloriosa. Semplice, rispose il giovane. Pietro capì perché gli era stato subito antipatico. E tu perché fai fotografie? Perché se qualcuno scriverà che la battaglia è stata gloriosa e magari non lo è stata, le mie fotografie lo smentiranno. De Amicis si irrigidì. Non provare a rivoltare le mie parole, presuntuoso. Io non rivolto nulla, replicò Pietro. Siete voi che avete detto che sarà gloriosa perché così scriverete. Sei uno sciocco, fece Edmondo De Amicis indispettito. Non provare a fotografarmi. Sabato prossimo cade un altro anniversario che riguarda questo un gigante della letteratura francese, questo certamente noto a tutti, Alexandre Dumas, padre, morto 150 anni fa. Uno scrittore popolare e prolifico che ricordiamo con Ingenue, introdotto da Mario Catucci e tradotto da Albino Crovetto per Robin Edizioni, 576 pagine, 26,50 €, un romanzo fluviale dunque, come era nello stile dell'autore, tradotto per la prima volta integralmente in italiano e ambientato negli anni tumultuosi della Rivoluzione francese, quando si scontrano due personaggi famosi, Marat e lo scrittore Retif de la Bretonne, autore nel 1789 di un romanzo intitolato appunto Ingenue Saxancourt, ou la femme séparée, una storia complicata e un libro sfortunato perché praticamente tutta la tiratura venne distrutta per il contenuto che venne considerato troppo truculento e pruriginoso. Ma anche Marat aveva scritto da giovane un romanzo e i due autori sono qui con Ingenue, la figlia di Restif, e protagonisti del romanzo nel quale scorrono i mesi decisivi della Rivoluzione francese, di cui Marat, poco stimato da Dumas, svolge un ruolo decisivo fino alla sua tragica uccisione nella vasca da bagna da parte di Charlotte de Corday, la cui vita si era intrecciata appunto con quella di Ingenue. Un altro inquietante protagonista della Rivoluzione francese è al centro del libro del giornalista Stenio Solinas, autore di Saint-Just, La vertigine della rivoluzione, pubblicato da Neri Pozzo, 174 pagine, 18 €. Saint-Just, ghigliottinato dopo una carriera fulminante a 27 anni, fu una delle figure più celebri, uno dei protagonisti del terrore, ma anche, scrive l'autore, una meteora che illumina d'improvviso il cielo della Rivoluzione francese per subito dopo spegnersi. Ripercorrendo le tracce di questa meteora, Solinas ci dà una appassionante ricostruzione della Parigi rivoluzionaria che vede l'ascesa appunto di un ragazzino che arriva dalla Piccardia dopo aver svaligiato la propria casa dell'argenteria di famiglia per diventare uno dei protagonisti capace di giganteggiare, scrive Solinas, spesso per realismo, in mezzo a un mare di chiacchiere, vanità intellettuali, scappatoie e retoriche. E interessanti sono i particolari che Solinas ci dà sulla dottrina politica e anche economica di Saint-Just, nella quale addirittura egli riconosce una linea liberal-libertaria. E quindi il quadro che ne emerge di questa figura così discussa è certamente problematico e coraggioso nel tentativo di leggere Saint-Just con lenti diverse da quelle alle quali fummo abituati in passato. Per un curioso effetto ottico, scrive Salinas, si confonde Saint-Just con un pensatore del moderno, da cui nel migliore dei casi prendere le distanze deprecandone gli effetti, ma del quale però si mantiene l'impianto mentale, il risanamento etico di un popolo attraverso la virtù rivoluzionaria. Ciò che sfugge o che si fa finta di non comprendere è che Saint-Just, dice Solinas, non ha davanti a sé alcun ammaestramento che possa indicargli la via giusta da seguire. E resta il fatto, conclude l'autore, che Saint-Just è un terrorista convinto, un teorico del terrore sino alla fine della guerra, ma lo è nella logica del carattere esemplare da dare alla repressione, non della sua generica quanto cieca applicazione. E a questo punto... Il confettino. Torniamo a Dumas con Robin Hood, il principe dei ladri, 320 pagine, 8,90 euro, tradotto da Giancarlo Carlotti per Gribaudo, in cui il grande scrittore francese ricorda l'immortale leggenda del bandito generoso britannico in un libro la cui copertina diventa un gioco dell'oca per fuggire dal castello di Nottingham. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.